d'accordo che in quanto persone transessuali e transgender il nostro finto riscatto, limitato peraltro in sostanza ad una schiacciante maggioranza di uomini trans bianchi ed eterosessuali, debba passare necessariamente tramite la miseria dell'esistente e le sue ridicole concessioni. Forse rispetto alla disoccupazione imposta, parlare di rifiuto del lavoro sembra un po' ridicolo, ma si potrebbe pensare a rivendicare qualcosa come un reddito per l'autodeterminazione, qui e ora, ad esempio attraverso pratiche di neomutualismo dal basso, dal momento che richiedere qualcosa allo Stato è come chiedere pane e acqua al secondino, ed è evidente l'utilizzo del welfare come strumento di controllo. Con tutte le angherie subite, mi pare proprio il minimo dei risarcimenti possibili. Il tutto certamente non come soluzione, ma nell'ottica di liberarsi un giorno da ogni delirio possibile del capitale. Sul tavolo di una politica radicalmente frocia e frociamente radicale, questa mi sembra una questione importante da porre. Quindi in conclusione volevamo augurarvi buon anno nuovo, anzi buon anno di lotte e libertà. In particolare, mi raccomando, troviamoci tutti e tutte il 31 mattina alle 11 sotto Rebibbia, appunto per portare un augurio di buona libertà a tutti coloro e tutte coloro che sono detenute. Vabbè, in quel caso insomma Rebibbia, però esteso a tutta la popolazione detenuta. Bene, buon anno da tutte noi, come ha detto giustamente Claudia, un anno di libertà e di lotta. Ciao. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. pressure is low, low, low, low. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e inizia prove tecniche di trasmissione per oggi 18 dicembre del 2013, ultima trasmissione di questo anno. Cominciamo con il dire che tra qualche minuto ci collegheremo, o meglio avremo una telefonata dal Forte Prenestino, già che questa sera c'è una delle tante iniziative di presentazione della nostra Scarceranda, la nostra autoproduzione più celebre, ormai stampata da moltissimi anni a questa parte, e quindi a breve avremo questa chiamata dal Forte Prenestino. Il palinsesto prevede dopo questo spazio, a questo punto con il punto interrogativo, 25 o'clock. Non so se tutta la cosiddetta crew di questo programma è presente al Forte o meno, sapremo anche questo. Comunque il telefono è 0649 1750, il sito internet è www.ondarossa.info, anche per usufruire dello streaming attraverso un computer. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e riferito a questo spazio disorder@ondarossa.info. Inoltre, per sottoscrivere, approfittando anche delle cosiddette feste natalizie per chi se li gode e per chi ha un reddito, ovviamente è anche una buona occasione per passare qui in radio e sottoscrivere anche attraverso il 6180 4001, intestata cooperativa culturale laboratorio 2001, via Volsci 56 00185, Roma. E intanto che aspettiamo questa telefonata, cominciamo un po' con andare a conoscere questa compilation tra virgolette in tema con il periodo. Una compilation divisa in quattro capitoli che si chiama Canzoni per i Natali del Futuro, incentrata sul concetto della Toy Electronic Music, e quindi si sfruttano strumenti autocostruiti, piccoli computer, piccole tastierine anni 70, i primi vagiti dell'elettronica. E tutto ciò grazie a una serie di artisti, soprattutto romani, decisamente sotterranei. E quindi questa sera cominciamo con l'ascoltare Trash Sound di Nuke War Love e Senza Elettricità di Jacques Melchance. Thank you. Abbiamo in onda questa telefonata che, alla quale avevo accennato prima, e ci colleghiamo quindi direttamente col Forte Prenestino. Ciao. Eccoci qua. Allora, sì, come ogni ultimo, in questo caso eccezionale, dato che l'ultimo mercoledì del mese cadeva il giorno, diciamo, della ricorrenza cristiana del Natale, ecco, Allora si è pensato appunto di farlo il mercoledì prima, bah, sì, insomma, si poteva fare pure a Natale, vabbè, tant'è che ecco, nel frattempo ecco, continuano ad arrivare compagni e compagne, nel frattempo appunto si fa di mercoledì al Forte Prenestino, che sappiamo tutti, via Federico del Pino, esatto. Forte Prenestino, eccetera eccetera. Allora illustraci il programma della serata. La cena scarceranda si fa per finanziare il progetto scarceranda, cioè significa portare più possibile scarcerande e opuscolo nelle carceri, nei luoghi di detenzione. Quindi è importante vendere le scarcerande, è importante però finanziare anche scarceranda, che mantiene comunque il prezzo di copertina di 12 euro come da tantissimi anni. Quindi la cena scarceranda serve anche a questo, a fare in modo che appunto possiamo mandare quante più possibile agende in carcere a chi ne fa richiesta, o comunque l'idea era quella appunto, un'agenda venduta, un'agenda in carcere. Ormai sono più le agende in carcere delle agende vendute. La serata appunto prevede innanzitutto la cena, il forte è molto pieno, la taverna è molto piena, bene. Venite presto perché altrimenti finisce da mangiare. Che cosa c'è da mangiare? Me lo so anche scritto: pasta e fagioli, e non c'è bisogno di commentare. Pasta e fagioli? Pasta e fagioli. No, fagioli, proprio, è diverso. No, scritta proprio così, sulla vignetta, io diciamo pedisseguamente non commento. Dico quello che c'è scritto. Sì, sì, vai. Poi penne a ragù verde, così c'è scritto, è un ragù sempre vegetale, ma combo vegan, che è un combo di verdure e tipo orzo. Poi c'è il pulisci budella. Pulisci budella, sì, sono carote verza, pulisci budella biodinamico, detto. Certo. Poi potrebbe essere frainteso il biodinamico, eh? Il pulisci budella unito, no, sentimento, io serve a quello, sono trasparente, sì, esatto, esatto. Il pulisci budella biodinamico. Perfetto. Poi super rover salad, che non ho ben capito cos'è, ma ci stanno dei nomi, mostarda, cose del genere, e poi il combo dei poracci, che ho preso io tra l'altro, ovviamente in quanto poraccio, certo. Che è tipo il combo vegan, ma c'è pure l'ovo. Dunque, che altro dire? Ah beh, c'è da dire che la serata continuerà, perché ecco, stasera la corrispondenza della cena di scarceranda era con una iniziativa che stanno facendo dei compagni di una radio web dei Castelli, che si chiama Radio Default, e che farà una 4 giorni, poi magari più là avrò modo anche di spiegare meglio com'è questa iniziativa. Sì. Farà una 4 giorni in vari posti occupati di Roma, proponendosi appunto come radio radio web. Ora noi, è una radio di Castelli. Sì. Ora noi appunto, nella coincidenza c'era scarcerando di 25 o'clock eccetera eccetera, ci siamo un po' così infilati in mezzo e trasmetteremo noi con loro, facendo rimandando anche il segnale in FM e pure sul web come onda rossa. Da lì quindi un'importante, sì, un'importante, sì, come dire, sinergia. Sinergia, interlocuzione, fare rete fra le radio web o FM dei compagni, perché appunto è importante in questo momento, credo, poter appunto provare a sperimentare questo tipo di comunicazione, che reticolare, appunto capillare, diffusa, che potrà essere anche importante nelle lotte, nella comunicazione antagonista, eccetera eccetera. Sì. Quindi vabbè, insomma, è finito. Prove tecniche di trasmissione, faremo un'altra prova tecnica di trasmissione, che è quella appunto di mandare 25 o'clock in diretta web su Radio Default, su www.ondarossa.info, eppure sull'FM a Roma nel Lazio. Insomma, un po' questa qui è la faccenda di questa serata. A partire proprio dalle 22:30 o un po' più in là, dimmi un po'. Io dovrei finire intorno alle 22:40. Un pochino, sì, allarga di pure un pochino, tanto ci saranno sicuramente qualche difficoltà tecnica per affrontare il tutto, quindi comunque ci teniamo in contatto. E quindi durante la domanda, ok, a un certo punto vi intromettete voi. Ci intromettiamo. Perfetto, non male come esperimento anche diciamo tecnologico, sì. Tecnologico. Fermo restando che 25 O'Clock è la trasmissione più scrausa dell'etere mondiale e quindi sicuramente andrà tutto storto. Non ti buttare giù dai, Marco. Ok. Quindi tu e appunto, il fantasma state là comunque, siamo qua. E quindi trasmettere praticamente di là, insomma. Alla porta. Un'ultima cosa, e vorrei anche sottolineare, e ti lascio, che chiaramente questa è una delle tante iniziative che si faranno per sostenere la Scarceranda da qui in tutto il mese di dicembre e credo anche non solo, se non erro. Anche più là. Sì, assolutamente, Scarceranda va in giro pure lei nei territori, tra poco ce ne sarà una a Pisa, non soltanto a Roma, insomma, a Napoli stanno previste, quindi magari te hai davanti tutto il programma e riuscirai a dirlo, diciamo, più precisamente, meglio della mia memoria, che come sai non è che è scarsa, non c'è, non è presente, esatto. Va bene, io comunque ti ringrazio, a parte la memoria di questa corrispondenza, vi auguro una buona iniziativa, una buona cena, un buon tutto. C'è anche della musica dopo? Metterai così, la diciamo pure in diretta, tanto sì. Che ci frega, insomma, non è che Radio Onda Rossa e la radio alla buona casaliccia. Ma tu mercoledì Natale trasmetti? Non credo, no. Non credo. No. Bene, invece probabilmente noi trasmetteremo, vabbè, ci sentiamo comunque. Sicuramente. Okay. Ci sentiamo così, sì. Queste sono quasi delle, come dire, note a margine private, ma comunque private, però, succede anche di questo. Ti ringrazio nuovamente, saluto a chi, tutti i presenti e a dopo. Ok. Grazie, ciao. Buona serata, ciao. Ciao. E quindi avete sentito, più tardi, questo sorta di streaming dal Forte Prenestino per la presentazione, una delle tante presentazioni della nostra Scarceranda, a partire da circa le 22:45, questa presentazione live dal Forte. Per cui noi andiamo avanti, lasciamo questa compilation canzoni per il futuro, che ascolteremo anche meglio nelle prossime settimane, per andarci ad ascoltare questo album dal nome Anima Meccanica, di un artista italo-americano, si chiama Cervello Elettronico. Nel genere una delle migliori uscite, e stiamo parlando di atmosfere tribali e rhythmic noise. E oggi ci ascoltiamo She's Got the Mage e Down the Line. passaggi dunque relativi a Cervello Elettronico, al buon David Christian, italo americano, anche se praticamente da sempre incide per la Hans Productions di Dortmund, etichetta di punta di questo tipo di scena, e con la quale rimaniamo con i prossimi artisti invece spagnoli, Proyecto Mirage, che hanno inciso per la Hans in passato per l'Antezen e sono ritornati nell'etichetta madre. Ultimo album dal nome Steam Tech. E andiamo ad ascoltarci da Steam Tech, Flying Biocopter, e Rhythm of a Locomotive. ancora Proietto Mirage, sui quali andiamo a salutare il buon Gabriele, che è un po' che non sentivamo. Un grosso abbraccio a lui. Onda Rossa 87.9 in modulazioni di frequenza con prove tecniche di trasmissione ancora per circa un'oretta, e poi ricordo lo streaming che verrà dal Forte Prenestino per la presentazione della Scarceranda 2014. Ancora Proietto Mirage da questo Stream Tech, e questo è Rhythm of Locomotive. Yeah. chiama Sting Tech, ultimo lavoro per Proyecto Mirage di Alicia Villene e Francisco Planillas. È da parecchi anni ormai sulla scena questo duo spagnolo Flying Biocopter Rhythm of Locomotive, la ficcante elettronica, pulsante elettronica di Proyecto Mirage. 21:52, 87.9 a Radio Onda Rossa, con prove tecniche di trasmissione che va avanti operando un taglio netto e un cambio soprattutto netto di atmosfere. Arriviamo qui in Italia con Camerata Begnonolense, progetto che, come dice anche l'aggettivo, proviene da Milano. E abbiamo qui un penultimo lavoro, l'ultimo lo sentiremo più in là, il penultimo lavoro del 99 ma ristampato attraverso la Auerbach Totrantegger, etichetta tedesca, album che si chiamava Madrigali, che conteneva sostanzialmente delle cover di vecchi canti popolari. E oggi ci ascoltiamo Madrigale e la celeberrima Lili Marlene. und steht sie noch davor. So wollen wir da uns wiedersehen bei der Laterne, wollen wir stehen wie einst Lilly. Unsere beiden Schatten sahen wie eine raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus.